Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è stata Devo. lambita da una setta? Sì, il tentativo di cooptazione che è stato fatto nei confronti da parte di un professionista, mi sto riferendo. Sì, non mi faccia nomi, che non c'ho voglia adesso di No, andare dagli no, un avvocati. avvocato, ma Sì. è un avvocato, perlomeno un sedicente avvocato, si spaccia come tale, ma credo che sia Come solo l'aveva sedotta ad entrare nella sua laureato. setta? Cosa le aveva promesso? Ma sostanzialmente questi personaggi sfruttano senz'altro la debolezza psicologica temporanea di alcune persone che magari passano dei momenti di Ma lei difficoltà. cosa era successo? No, io l'ho conosciuto casualmente, del tutto casualmente all'interno del tribunale. E fanno leva esclusivamente sul discorso delle prestazioni sessuali, con tutto, con la prospettiva di sesso a volontà, orge a piacimento, Cioè, l'aveva offerto, diciamo, un tentano, paradiso di... sì, e con questo meccanismo cercano di Ma scusi, cooptare lei è una quasi donna, più adesso non per dire, personaggi. mi rendo conto che per un uomo può essere più difficile avverare questo sogno, ma una donna se vuole ne trova quante ne vuole, c'ha bisogno di entrare in una setta, una donna per togliersi dei capricci di tipo sessuale, secondo me no. No, ma il risvolto è proprio questo, il loro meccanismo, è quello per cui più sesso fai, più energia acquisisci, diventi padrone di te stesso, sicuro e consapevole delle tue Male non fa, possibilità. diciamo, però non Sì. capisco cioè, cosa offriva, qual era, diciamo, il servizio che le offriva in cambio del fatto che avrebbe partecipato a queste orge. L'organizzazione, gli escort e le escort, il catering, qual era il servizio che offriva? Perché se vuole lei stesso ne può fare quanto le pare, chi glielo impedisce? No, ma certamente, però più prestazioni sessuali si eseguivano con i consociati o con questo stesso personaggio, più la persona avrebbe acquisito potenzialità, fiducia in se stessa, la capacità di superare le difficoltà nella vita, perché sesso era uguale a energia e consapevolezza.